La manifestazione si svolge venerdì 21 e sabato 22. È un evento che noi svolgiamo ogni anno, si estrinseca nella alcune manifestazioni, diciamo, di carattere politico e culturale. Quest'anno presentiamo il libro Sindrome 1933 di Sigmund Ginsberg, che è un prestigioso giornalista che indaga l'ascesa di Hitler e illustra anche tutta con una serie di riferimenti le analogie col presente. Un libro molto interessante per comprendere quali possono essere gli scenari futuri, comprendere meglio anche la relazione tra informazione e populismo sovranista e reazionario. Questo è il primo appuntamento. Il secondo appuntamento è un bellissimo laboratorio di pittura creativa per bambine e bambini dai 6 agli 8 anni che l'artista Alessandra Serafini di Ravenna terrà il sabato mattina dalle 10 alle 12, dedicata appunto a questa fascia di età. L'accesso è libero e gratuito. Il laboratorio intende suscitare nei bambini l'interesse per il pensiero della differenza, la valutazione di che cosa significa confrontarsi con l'altro da sé. Nel laboratorio che ha tenuto a Ravenna ha dato luogo alla realizzazione di un numero considerevole di opere che sono esposte nel comune di Ravenna e hanno dato luogo alla pubblicazione di un libro. Poi ci sarà il pranzo per i bambini e un dibattito sull'argomento appunto della pittura creativa e dell'educazione alla differenza. Il sabato sera si conclude la festa con questo importante incontro tutto di donne che ha come tema femminizziamo una politica differente, cioè noi intendiamo promuovere, abbiamo chiesto a donne di diversa estrazione comunque impegnate nella società e nella politica, tra le quali Nadia Urbinati, Ellie Schlein, Emily Clancy, Silvia Prodi, Cristina Quintavalla, Silvia Zamboni, cioè tutte donne che hanno competenza e esperienza, di rappresentare la loro idea di come la politica può cambiare, perché riteniamo che il femminile può essere la chiave per una politica che ha bisogno fortemente di rinnovarsi. Il tutto termina con un bellissimo buffet sempre di autofinanziamento, perché la nostra necessità è quella di avere risorse per continuare il nostro impegno. La nostra festa è sempre un momento di socialità, di partecipazione libero, indipendente, però militante, quindi con una forte identità politica di sinistra. Quindi donne in politica, in che modo possono contribuire le donne in politica? Che svolta possono dare alla politica attuale? Le donne sono normalmente portatrici, naturalmente non in modo esclusivo o univoco, ci sono anche donne diverse, però sono portatrici in genere, diciamo, di una maggiore sensibilità sociale e una maggiore attitudine al cambiamento. Sono tendenzialmente meno conformiste sul piano anche dei rapporti umani, e quindi una politica che si femminizza, anche perché dietro c'è un grosso pensiero teorico, diciamo, della differenza, un pensiero critico della società che le donne hanno sviluppato e che però purtroppo non riesce ad affermarsi compiutamente nella forma dei partiti intesi tradizionalmente come organizzazioni tradizionali. Invece noi pensiamo, e credo che molte donne lo pensino, che una politica che si femminizzi è una politica anche che si umanizzi e che si rinnovi. Ecco, in questo senso competenza e specificità femminile possono essere ingredienti importanti di questo cambiamento. Abbiamo parlato anche dell'importanza della comunicazione. Ecco, secondo lei la politica oggi in Italia sa comunicare? La politica in generale e in modo specifico la sinistra? La politica e la sinistra politica hanno sempre avuto un grosso problema di comunicazione. Non che non abbia avuto anche dei grandi comunicatori, ma le idee della sinistra, oltre che per il fatto che sono normalmente avversate, ma purtroppo subiscono, diciamo, il condizionamento oggi di una deriva del linguaggio populistico, semplificatorio, banalizzante la realtà e la complessità che nuoce alla sinistra, che ha bisogno invece di avere argomenti per illustrare il suo punto di vista. Detto questo, diciamo, è necessario che anche le leadership di sinistra ritrovino una capacità comunicativa diversa, ma questa nasce solamente da un rapporto diverso con la società e un rapporto più diretto con i mondi di riferimento, quindi col mondo del lavoro, col mondo della sofferenza, col mondo dell'esclusione. La sinistra è portatrice di questi valori, ma molte volte è distaccata dal rapporto reale con queste vicende e quindi non riesce a entrare in sintonia con i mondi ai quali si vuole riferire. Questo è il limite comunicativo della sinistra, ma questo deriva anche dal fatto che la sinistra ha abbandonato certi presidi e determinati presupposti della sua attività nella società. Si è molto, tendenzialmente si è burocratizzata, si è formalizzata, si è istituzionalizzata, ma si è inaridita. E quindi queste zone lasciate vuote dalla sinistra sono state prese da altri schieramenti politici. E come come potrebbe la sinistra riappropriarsene, diciamo così? Si dice comunemente in politica i vuoti non esistono, qualunque vuoto viene riempito da un altro pensiero politico e da un'altra presenza politica. Non da oggi la sinistra, appunto, come dicevo prima, ha abbandonato determinati campi del suo agire, non che gli abbia voltato le spalle, diciamo, ha dato per scontato che ne era rappresentante e non si è accorta che invece questi campi venivano invasi da altre forze. Lo può fare se rimette nell'agenda delle sue priorità l'impegno concreto. Faccio un esempio: il mondo del lavoro, i diritti del lavoro, la precarietà. La sinistra che conosciamo è quella che ha approvato il Job Act, che è una legge che limita i diritti del lavoro e addirittura toglie importanti tutele, quale per esempio quella contro il licenziamento per non giusta causa, elimina la possibilità del reintegro. Questa scelta è molto imprenditoriale, molto vicina al mondo dell'impresa, ha creato una separazione netta, una voragine tra sinistra politica e mondo del lavoro. Ecco, il modo per recuperare questo rapporto è ripristinare quelle priorità e quei diritti per i quali la sinistra è nata, cioè la difesa del lavoro, certo non la difesa comunque critica, ma la difesa dei diritti fondamentali sì, e soprattutto la lotta alla precarizzazione, mentre invece su questo la sinistra è stata troppo sensibile alle sirene, diciamo, del capitale, che l'hanno spinta ad abbracciare le tesi che il lavoro deve essere flessibile, può essere non sottopagato, che le tutele sì, ma non fino a un certo punto. Ecco, la sinistra deve tornare a fare il suo mestiere.